Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizio. Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Allora, iniziando la domenica subito dopo le previsioni del tempo, Carlo, noi non possiamo che confermare o smentire quello che dicono i colleghi del accodarci. Milano-Monterosa? Milano-Monterosa c'è un bellissimo sole. È un bellissimo sole, però giustamente, come abbiamo sentito al meteo, forse arriverà un po' di pioggerella per ricordarci che siamo in primavera. Giusto, esatto. Perché sembra di essere passati dall'estate, dall'inverno dritti all'estate, invece in mezzo siamo nel mezzo, cioè, quella stagione un di sole tre mesi. Ben augurante per l'inaugurazione questa sera di una mostra che ci sta particolarmente a cuore, al Tempio d'Oro, proprio a Milano, Via delle Leghe. Inaugura la mostra In viaggio con Wondi. Perché, lo sapete, la neonata associazione Wondi sono io, l'associazione nata per la diffusione della cultura della resilienza, parte proprio con una mostra dedicata a Francesca Del Rosso, giornalista e scrittrice che, come sapete, per 6 anni ha affrontato con ironia e carattere la sua malattia. E allora questa sera appuntamento all'inaugurazione di questa mostra dedicata alla sua passione per la cultura, per i viaggi e per tante altre cose. Perché quindi, è una persona straordinaria. Certo. Vi aspettiamo, ascoltatori, per stare con noi tutta la mattinata. Cerchiamo un personaggio della settimana, naturalmente. Vi diamo subito il primo indizio, così potete cominciare a pensare. Questo personaggio è controcorrente, eh? Quindi c'è una notizia degli ultimi 7 giorni che riguarda un personaggio controcorrente. Il primo che indovina si porta a casa un libro, anche oggi a tema, sulla puntata di oggi. Che ovviamente non possiamo dire, perché sennò si svela magari il personaggio. Però possiamo dire che la settimana scorsa il personaggio è stato indovinato presto, a metà puntata, prima di metà subito puntata. E poi ne abbiamo fatto subito un altro che però non avete indovinato. Chi era? Quindi è ancora in ballo. Se volete chiamare anche per il personaggio di settimana scorsa, noi ovviamente siamo tutto orecchi. Sì, no, ma rispondete a quello di questa settimana, così vincete il libro. È un personaggio controcorrente. Vai, iniziamo con un po' di settimana, notizie di settimana, e poi le nostre storie. Si può fare. C'è l'idea di guardare le cose nel complesso, se no c'è un uovo di giornata tutti i giorni. Qui c'è un fatto che turba l'opinione pubblica, perché dà l'idea, padri, madri, figli, amici, conoscenti dell'infanzia, eccetera, messi dentro a una vicenda romana nazionale, in uno dei 10 paesi più potenti economicamente del mondo, che siamo noi. Ma c'è proporzione fra queste cose? Sta diventando berlusconiano il PD sulle intercettazioni e sul rapporto con la stampa, come dice Speranza? E questo, c'è l'impressione anche di questo, perché una volta non si dice niente, l'altra volta si indigna. Niente, tema intercettazioni, quelle famose che riguardano il caso Consip, Renzi, il padre, la telefonata, eccetera, eccetera. Un PD berlusconizzato, secondo Bersani. Beh, insomma, secondo Bersani è berlusconizzato 2/3 d'Italia, perché il centrodestra è berlusconizzato da sempre. Adesso è berlusconizzato anche il PD, siamo a posto, tutto berlusconizzato. Non sono ancora abituato a sentire Bersani che non faccia parte del PD. Devo ammettere, è una mia mancanza. È una cosa strana, ci abitueremo. 800 24 00 24. Adesso andiamo in Toscana per un... io credo che si poteva già fare, e invece no. Adesso... E invece è stato fatto. È stato fatto, lo stanno facendo, se stiamo incartando alla grande. Parliamo della produzione di cibi casalinghi. Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi. Sembra, ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli, scaloni. E son rimasto senza fiato quando mi son ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito nella vita il significato e il valore inestimabile. Allora, stiamo cercando anche un personaggio della settimana, ve lo ricordo, all'800 24 00 24, che è un personaggio controcorrente. Io canto il ritornello, senti che faccio. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto. Oh mamma, abbiamo anche intonato l'orto del ragazzo semplice. Esatto. Stefano Scaramelli, che è il presidente della Commissione Sanità della Regione Toscana, del Consiglio regionale. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, salve a voi, buongiorno. Buongiorno. Allora, queste note perché, insomma, prodotti dell'orto, anche questo, cioè dalla marmellata fatta dalla nonna Pina in casa sua alla conserva di pomodoro fatta dalla signora Silvana, che io credevo già si potessero in qualche modo produrre e anche commercializzare. Quei banchettini che vediamo ai bordi delle strade, per esempio, sono tutti illegali, perché adesso voi avete pensato di fare una legge che permetta proprio questo, cioè adesso non si può fare? No, allora di fatto abbiamo normalizzato quello che già avviene, questo vi do ragione, ma nella nostra tradizione rurale toscana, della nostra campagna, non c'è nonno, nonna o genitore, diciamo, che non fa il miele in casa, che non fa la marmellata, che non fa i pomodori. E sono buoni, diciamo, caramini, anche questo. E fermiamoci qui, insomma, diciamo, noi facciamo di tutto in casa. Questa è una tradizione, è la nostra storia, è la nostra tradizione, è la nostra ruralità. È una tradizione italiana, se posso aggiungere. Sì, in realtà sì, è un po' una tradizione di tutte le regioni, però sicuramente in Toscana. Tutte le regioni, avviene ovunque. Allora, questa dimensione di ruralità, questa trasformazione, però sì, ha bisogno di un processo di trasformazione che non è industriale. Quando quel processo di trasformazione avviene nelle cucine domestiche, cioè sì, nella propria abitazione, è evidente che dei limiti si pongono, perché non è che si può trasformare nella stessa cucina dove tu mangi durante la giornata. Allora, fare una legge in termini di requisiti igienici, e siccome quasi tutti hanno la seconda cucina, hanno il rustico, e cioè funziona così, poi hanno la cantina, basta identificare qual è il luogo dove avviene la trasformazione, basta denunciarlo, cioè dichiararlo alla ASL, basta che abbia i requisiti igienico-sanitari, a quel punto te puoi identificare quel processo di trasformazione anche nella tua casa. Però io adesso glielo richiedo e poi facciamo una pausa sul traffico, nel frattempo lei pensa alla risposta. Questa legge è una legge che come dire, va a permettere qualche cosa che prima, pur facendosi magari in qualche modo, era illegale, oppure è una legge che va a normare e quindi in qualche modo anche a limitare, a mettere qualche freno a questa questione? A autorizzare fondamentalmente ciò che di fatto già avveniva. Il problema è che il luogo di trasformazione, sì, di un prodotto bisogna dichiararlo, e molte volte si aveva difficoltà, perché queste persone poi, quando vanno a fare il piccolo commercio, il gruppo di acquisto solidale, il mercatino, la rivendita all'amico di casa, a tutta, cioè, la circolazione di tutti questi prodotti non aveva un processo sanitario di verifica. La verifica quale può essere? Il luogo della trasformazione. Quindi benissimo, benissimo. Ha chiarito. Adesso facciamo questa pausa per le informazioni sul traffico, poi torniamo a parlare di questo, perché sappiamo benissimo che ci sono tante cose da scoprire, tanti cibi particolari, tante produzioni che altrimenti si perderebbero, anche perché parliamoci chiaramente, uno va al supermercato, sugli scaffali trova prodotti industriali sicuramente di altissima qualità, però la marmellata di nonna Pina e la conserva della signora Silvana hanno un gusto particolare, e allora è giusto non perderli. In Toscana sta per arrivare una legge che però va a normare questo. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi chiediamo subito se volete intervenire per dire la vostra su questo, per raccontare anche come succede invece, cosa succede nelle vostre regioni. Tra poco. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. La mia fidanzata era ancora più innamorata da quando la portai a seminare l'insalata. Mentre la guardavo della terra prendersi cura, ho pensato che capolavoro dell'agricoltura, e non mi ero mai accorto che Allora, siamo di nuovo in compagnia di Stefano Scaramelli, presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Toscana. Stiamo discutendo di questa proposta di legge che è stata approvata all'unanimità in commissione, quindi ha tutte le carte in regola per essere approvata poi in Consiglio Regionale. Io però glielo voglio richiedere. Intanto le racconto un episodio. Sono stato recentemente proprio in Toscana, che è la mia regione tra l'altro, e mi hanno portato a comprare le conserve da una signora che a Castiglione della Pescara produce delle cose particolarissime. Tutti lì contentissimi a comprare conserve passate di pomodoro. Ho sbagliato, cioè dovevo cercare che ci fosse in qualche modo un bollino che garantisse. Dovevi tutto... chiedere intanto alla signora se c'aveva due cucine. Se c'aveva due cucine, beh. No. Oppure, visto che tutti ci vanno da anni e tutti si fidano, il cibo è buonissimo, non si rischia niente. Però la domanda vera è questa: fatto 100 il numero di quelle persone che già oggi vendono in Toscana prodotti di questi tipi, dopo la legge che eventualmente verrà approvata, lei si aspetta che diventino 200 di più? 12. Perché garantite uno strumento in più, oppure che diminuiscano perché avete messo dei paletti? No, noi ci aspettiamo anche che aumenti l'impresa, anche individuale, che prova a mettersi in discussione, perché di fatto queste trasformazioni avvengono. Molti sono già imprese, chi è già impresa non ha problema, perché se te sei impresa e vendi un prodotto agricolo trasformato hai già dovuto indicare dove lo hai trasformato. Questa è una questione di correttezza anche di fronte a coloro che lo comprano in termini igienico-sanitario. Questa può far emergere, diciamo, dal nascosto o da quello che viene fatto di segreto, tante altre imprese che in termini individuali possono non avere grandi investimenti iniziali per poter fare una propria attività di impresa, o allo stesso tempo può regolarizzare tanta attività che fondamentalmente viene fatta nel settore del miele, delle confetture, dei salumi. Abbiamo un esercito di situazioni che fondamentalmente, rispetto ai salamini, le salsicce, tantissime situazioni che avvengono fatte. Io credo che questa sia una norma di buon senso che consente anche di far emergere imprese magari di carattere individuale, non devono essere processi industriali, e poi a quel punto il livello della commercializzazione, se uno gli prende voglia, può diventare impresa. Comunque, anche se questo non avviene, ovviamente va a regolarizzare tutti quegli aspetti di quei prodotti che poi magari neanche l'etichetta c'era, perché poi fondamentalmente nel sottogoverno di questa situazione molte volte neanche ci metteva l'etichetta, certo, dava barattolino e via, insomma però noi quello che ci chiediamo sotto, sì, casa, una cosa è in un negozio già oggi non potevi farlo, cioè, no, questo è chiarissimo, questo. Noi quello che ci stiamo, nel senso, quello che stiamo chiedendo è appunto se lei sta dicendo nel momento che questi prodotti entrano anche in una distribuzione che non è semplicemente quella casalinga del banchetto, certo, fuori dalla propria casa, è giusto che abbiano anche l'etichetta, perché sennò è impossibile andare a vendere in un altro negozio. Quello che noi stavamo chiedendo è di quelli proprio piccoli, piccolissimi, che vendono le quattro cose che fanno in casa loro, di quelli oggi noi crediamo che non vengano arrestati perché non hanno la seconda cucina. Ci chiediamo adesso, con questa nuova legge, potrebbero invece essere fuori legge? Esatto, essere fuori legge? No, non lo saranno, perché già oggi non indicavano sicuramente il luogo della trasformazione, perché non potevano indicarlo. Sì. Oggi non potevano indicare il luogo della trasformazione, quindi in questo caso gli viene data un'opportunità straordinaria di poterlo indicare. Poi voglio dire, ma se non lo indicano, però non possono vendere nemmeno il barattolino fuori da casa loro. Non potevano farlo neanche prima, voglio dire, noi diamo loro un'occasione di emergere su un settore che fondamentalmente o prima non si dichiarava, adesso si può dichiarare, questo, certo, si regolarizza, c'è un requisito igienico di tutela dell'acquirente, perché poi domani succede qualcosa, non sa che andare a cercare, ma consente a tutte queste persone di farlo, voglio dire, se fai pomodori, se fai le marmellate, se fai un maiale, insomma, se fai salsicce, fai prosciutti, queste devi indicare il luogo della trasformazione, e quindi va bene anche la cucina domestica, va bene, diciamo, un luogo anche della tua civile abitazione. Questo è, secondo me, una rivoluzione straordinaria che consentirà a tante persone di anche di aumentare con più tranquillità questi processi di carattere produttivo. E sarà semplice, però, perché il dubbio, basta dare un'indicazione del luogo dove, e una dichiarazione del luogo dove viene trasformato, lo comunica la tua azienda sanitaria locale. Sì, certo. In quanti posti bisogna comunicarlo? Perché quando parliamo magari di una persona che ha 86, sì, anni e fa questo, un conto se deve fare un'unica comunicazione, un conto un'unica se deve entrare nella burocrazia dell'impresa e quindi lascia perdere, dice vabbè, il polpettone lo faccio per i miei nipoti e non lo vendo. Quello, se, Qui la differenza però è anche la tutela delle aziende che poi in maniera regolare già operavano. Certo. Perché sennò siamo un paese assurdo in cui chi è in regola, che rispetta le regole, diciamo, è massacrato di burocrazia, e poi è come quello che il canone o non lo paga per niente o lo inizia a pagare e poi da giorno dopo, una volta smette, viene preso. No, se non si è mai pagato non ti beccavano mai. Qui è delle due l'una. Però non sono mercati diversi, Scaramelli, cioè un'azienda agricola che vende magari anche nei mercati, nei supermercati o nei negozi, rispetto a una persona che vende prodotti di casa sua e vende quattro marmellate, non sono due cose diverse che meritano regole diverse. Ma non sarà obbligata a fare impresa. Non sarà obbligata a fare impresa. Questa non è una legge fatti che nasce sotto il punto di vista economico, nasce sotto il punto di vista sanitario. Noi vogliamo dare di riferimento sanitario, di sicurezza al consumatore finale di quel prodotto che in maniera artigianale emerge. Non è detto che la signora dovrà fare impresa. Una garanzia in più, la vogliamo prendere così, poi staremo a vedere. Anche noi ci assumiamo un pezzo di responsabilità perché andiamo a garantire il consumatore finale. Anche perché la legge non c'è ancora, arriverà probabilmente quando poi verrà approvata, staremo a vedere. Intanto noi lo giriamo anche agli ascoltatori, 800 24 00 24, se questo si può fare dalla Toscana, vi convince oppure no. Io intanto nel frattempo faccio costruire una seconda cucina a mia mamma perché voglio commercializzare il suo polpettone. Claudio da Torino, buongiorno, benvenuto. È caduto Claudio da Torino, adesso lo richiamiamo, vedremo se anche poi cambierà qualche cosa oppure no, oppure se sarà una delle tante leggi che arrivano ma che poi di fatto sono non modificano a intaccare più di tanto, a cambiare più di tanto la realtà delle cose. Nelle vostre regioni, cari ascoltatori, come funziona? Si può già fare, ma come avete sentito anche dal consigliere regionale toscano, sostanzialmente è una pratica diffusa, fondamentalmente diffusa, quella di vendere cibo prodotto in casa, spesso nei baracchini, ai margini delle strade di campagna, e si vanno proprio a cercare queste cose perché sono particolari e gustose. Dario da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, io telefono da Milano, ma in realtà sono di origine toscana, che ho una casa in un piccolo paese della provincia di Livorno, e ho notato che non sono soltanto i baracchini che vendono questi prodotti, ma ormai ci sono anche dei piccoli negozi che sono stati rilevati magari da negozi precedenti, sì, e che si sono riconvertiti a proporre prodotti che sono esclusivamente fatti da una famiglia. E tu che esperienza hai avuto con questi? Credo che fosse proprio il caso di cui parlava, sì, Scaramelli, presidente della Commissione Sanità. Prego. Esattamente, cioè in questi negozi si trovano soltanto i prodotti dell'orto di quella famiglia, per cui, sì, se quel giorno l'orto ha prodotto i pomodori, si comprano i pomodori, oppure l'insalata, oppure le fave, o qualsiasi altra cosa. Lo stesso discorso vale per le marmellate, che sono rigorosamente, almeno nel negozio dove vado d'abitudine io. Tu ci vai quindi, Dario, ti fornisci da, certo, queste, e ti sei trovato bene? Sei sempre trovato molto bene. Hai avuto il sospetto che ci fosse qualche legge non rispettata, qualche obbligo, o non te ne frega nulla perché tanto ti fidi e sai che la roba è buona? Quella è l'importante, anche la fiducia. Assolutamente, anche perché io lavoro nel campo della sicurezza, sì, alimentare, per cui sono sensibile a questo. Ah, vabbè, quindi non si può fare vivente. Sei un ispettore in realtà. No, dottore. Claudio da Torino, l'abbiamo recuperato in chiusura velocissimo. Vai Claudio. Eccomi qua, buongiorno. Buongiorno, cosa volevi dirci? Olivier Robert, indiscutibilmente. Personaggio della settimana, personaggio controcorrente assolutamente. È scomparso questa settimana, fra l'altro inaspettatamente. È un grandissimo personaggio, assolutamente. Claudio, non era lui però a cui avevamo pensato. Ma siamo contenti di averlo ricordato. Siamo un assolutamente contenti. Olivier Robea, un abbraccio a lui e alla famiglia. 800 24 00 24, è un altro personaggio controcorrente che cerchiamo, quindi continuate a chiamare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. I due principali sono come un fiume in piena. Perché? Perché sono fuori corso all'università. Non hanno nemmeno preso una laurea. Nessun lavoro, nessuna laurea, al massimo hanno fatto le hostess al San Paolo di Napoli e all'Olimpico di Roma per vedersi le partite gratis. Io ve lo sto dicendo da settimane, attenzione perché Berlusconi torna, guardate che torna. Berlusconi torna. Ed è più in forma che mai. E Berlusconi sta tornando. 800 24 00 24. Parlava di Di Maio e Di Battista. Schermaglie di settimana, voci di settimana. Ma questa settimana, cioè, sta deflagrando anche nella settimana della consacrazione di Salvini, segretario della Lega, dopo le primarie vinta l'80%. Sì, tra lui e se stesso e Fava. concorrente non proprio all'altezza, ma cioè, sta deflagrando anche la Lega. Cioè, la Lega. Sentite qua. Chi sta reggendo al moccolo a Renzi e alla Boschi non potrà essere alleato della Lega in competizioni a livello nazionale o regionale. E cosa fai? Sto alleato in Lombardia quando posso scegliere ex novo con qualcuno che, stando al governo a Roma col PD, toglie soldi alla Lombardia. Mi sembrerebbe bizzarra cosa. È finita la Lega, è un movimento di liberazione del nord contro il centralismo italiano e romano. Non può andare su. Cioè, hai detto, Bossi che ormai ce l'ha su con Salvini, la Lega è finita, Bossi che dice la Lega è finita. Dice se Salvini porta via la Lega, cioè che non è più una questione solo nord, ma vuole diventare un partito nazionale, quindi che non si occupa nemmeno più del federalismo, allora la Lega è finita. E poi Salvini... La Lega come Lega ha ragione Bossi, nel senso che la Lega nasce per quello, sì. Non si capisce bene che cosa sia una Lega nazionale che però si occupi dell'autonomia. Poi Salvini che dice basta l'alleanza con Alfano, Maroni in regione Lombardia alleato con Alfano, allora ci aspettiamo una crisi forse di governo in Lombardia, elezioni anticipate, sarebbe incredibile. Se c'era una cosa bella della Lega era che non litigavano tra di loro mai, adesso ci dobbiamo abituare ai litigi anche della Lega, ma a noi ci bastano quelli tra Bersani e Renzi, cioè o Cuperlo, Speranza, che pur essendo separati ormai continuano a litigare. 800 24 00 24, abbiamo Riccardo che ci chiama da Vicenza, stiamo cercando un personaggio della settimana che è controcorrente. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Bravi per la trasmissione, vi ascolto spesso. Grazie. Vai. Bene, Chris Cornell. Ah, così secco, personaggio. Sì. Chris Cornell. Beh, sì. Spiega. Raccontaci, dacci una motivazione. Beh, è controcorrente un po' per la sua, diciamo, storia musicale e poi, vabbè, della settimana la notizia della morte. Certo. In sostanza. Sì. Non è che siamo così ignoranti, è semplicemente che il bello di fare il gioco in cui cerchiamo un personaggio è che voi ci raccontate le storie dal vostro punto di vista, quindi era brutto semplicemente tagliarti dicendo sì lo sappiamo che è morto ma non è lui. Comunque non è lui il personaggio, che però siamo molto contenti di ricordare e di dispiacersi per la sua morte. Della mia storia musicale, ecco. Certo. Grazie Riccardo. Grazie mille. Buona giornata. Ciao, grazie. 800 24 00 24. Un altro personaggio controcorrente. Tra poco magari vi daremo anche un altro indizio che andiamo cercando. Concetta da Napoli, benvenuta. Buongiorno. Finalmente sono tanto contenta di parlare. Ah, e anche noi di ascoltarti. Sempre Radio 24, ormai fate parte della mia casa. Benissimo. Allora, quante radio hai in casa? Quante radio hai? Ne ho due. Una in cucina e una? Un'altra in bagno. Sono i luoghi classici. Beh, posso venire a mangiare quindi se siamo in casa? Benissimo. Perfetto. Però posso venire solo durante la trasmissione o posso venire anche nell'infrasettimanale? Dipende. Poi se mi fate sapere vi faccio un menu speciale. Va bene. Allora, io telefono riguardo le conserve. Sì. Io sono d'accordo che vengono etichettate sì. Perché io se regalo un pacco di biscotti che li faccio io, sì. Vicino metto scritti gli ingredienti ed è giusto che sia Brava. Così. E anche la data di scadenza ci mette? Sì, perché io faccio le melanzane sott'olio, faccio delle conserve Concetta. E metto la data, perché se succede qualcosa io metto persino mi sta l'olio. Venendo proprio una cosa qua che non si può descrivere. E tra l'altro ha molta ragione, perché una delle cose più classiche quando ti regalano i vasetti di marmellata o i vasetti di prodotti parenti e familiari che li fanno in casa, io poi li ritrovo lì e dico ma questo di quando sarà? Sarà del 2006 e si potrà ancora mangiare? Quindi effettivamente anche solamente la data di produzione potrebbe essere interessante. Concetta, però lei non li vende questi prodotti, li no, regala? No, assolutamente. Sì. Ai miei generi, marito delle mie figlie, sì. A qualche amica faccio i biscotti e metto vicino le date. Vogliamo entrare in questo elenco, vogliamo entrare in questa lista, anche in bassissima classifica, ma credo che ci aspettiamo il pacco di Natale. sarà molto piccolo però. Ci mancherebbe altro, noi basta mezza melanzana. Infatti si parla di piccole produzioni, ma noi stamattina vi stiamo chiedendo all'800 24 00 24 se la proposta di legge della Regione Toscana di normare la vendita di piccoli prodotti fatti in casa, conserve, marmellate, eccetera, quei classici banchetti che si trovano ai bordi delle strade, una proposta di legge che leggo al consigliere regionale che è intervenuto stamattina, Scaramelli, un messaggio di un ascoltatore che è esemplificativo. Che idea sciocca normare la vendita di piccoli prodotti se serve solo ad aggravare la burocrazia. Se sono un'impresa, che senso ha normare ulteriormente? Se non lo sono, non ne ho bisogno. Questa è un po' la sensazione che è venuta. Siamo partiti da un si può fare interrogativo stamattina per capire in che direzione vuole andare la Regione Toscana su questo tema. 800 24 00 24, Mariangela da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Prego. Io telefono per il personaggio della settimana, sì, secondo sì. me è Adriano Celentano. Per quale motivo? Spiega. Ma perché ha contestato la tesi del Papa, che insomma, il Papa non crede alle visioni di Medjugorje, non pensa che la Madonna sia così contabile. La Celentano ha contestato il Papa, me l'ero persa, francamente sì. me l'ero persa. sì. Mariangela, da qui potrai dedurre probabilmente che non era lui il personaggio, però approfondiamo un attimo questa notizia. Spiegaci un attimo meglio. Perché il Papa è stato molto dubbioso sulle apparizioni sempre alla stessa ora della Madonna. Certo. È Celentano che ci azzeccherebbe col Papa. L'ha contestato, quindi secondo me poteva essere lui il personaggio. Sì. Controcorrente, perché sì, sicuramente. Controcorrente perché si è messo contro il Papa. Quindi, sì. Sì. No, era curioso capire diciamo in che modo Adriano Celentano poteva dare delle valutazioni su Medjugorje, cioè, più sostanzialmente del Papa. Esatto, ma anche perché se non sbaglio il Papa ha appena reso beati due dei pastorelli, o sbaglio? Però lui non crede a queste apparizioni così sempre costanti alla stessa ora. Mi sembra una questione burocratica di orari tra diciamo il Papa, la Madonna e Celentano. Comunque Celentano ha detto: Pa Francesco, la tua è una svista su Medjugorje, io ci credo. Però comunque contestato, sì, diciamo, sì. Io tra contestano Papa. Gli orari, secondo me gli orari delle apparizioni, insomma, non farei entrare nel nostro Parlamento la decisione sull'orario delle apparizioni, anche perché si rischia sempre che timbri in ritardo la Madonna. No, ma poi sinceramente tra Celentano e il Papa su Medjugorje sarei a sentire più il Papa, forse. Grazie Mariangela, buona giornata. Grazie. Arrivederci, grazie. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Luca dalla provincia di Caserta. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Vai, Luca. A tutti. Buongiorno. Io volevo intervenire per... Sì. Pronto? Sì, ci sentiamo qui. Forte e chiaro. Per Luca. Criticare l'idea di una normazione ulteriore, anche perché onestamente non ho nemmeno compreso... Stiamo parlando della Regione Toscana e della possibilità di produrre, vendere piccole produzioni casalinghe di cibi. Vai, sì, Luca. Sì. Perché il fatto, diciamo, è proprio dell'intera Italia, come dicevate voi prima, anche nella Campania ci sono... molti piccoli venditori, piccoli sì. prodotti ai lati delle strade. Ora però mi chiedo, se io pongo un vincolo, un limite e lo violo, che succede? Chi controlla che succede? Sì. Anche questo è in effetti da capire, è da valutare. Sicuramente c'è un limite che è anche un po' nell'entità, nella quantità della produzione, perché se io giustifico come produzione casalinga la vendita di qualche tonnellata di conserve al mese o all'anno, è chiaro che è una sorta di truffa, no? Ma se veramente si parla della nonna Pina che vende le marmellate che fa in casa il fine settimana ai bordi della strada di campagna di casa sua, insomma, anche noi pensiamo che una normativa che aggravi tutto questo rischia di essere una spesa, una perdita di tempo inutile. E soprattutto forse, di far desistere forse, magari qualche anziana signora che fa bene questa cosa, che nel momento in cui deve entrare nella macchina burocratica preferisce mollare il colpo, perché poi come sempre è la terra di mezzo quella che un po' preoccupa, ovvero quelli di cui parlavamo oggi, che in realtà non è la signora che fa un polpettone e quattro marmellate, ma è qualcuno che inizia magari a farne un migliaio di vasetti di marmellate, che quindi allora, nemmeno va, li vende certo. tutti lui, ma li vende ad altri esercizi, quindi etichettatura e così via. Però è giusto che sia un'impresa, è giusto che paghi le tasse, è giusto che sia tutto assolutamente in regola. Devo correggermi sì. perché prima giustamente un ascoltatore ci fa notare parlando di Medjugorje ho parlato di Pastorelli, ho ovviamente sbagliato, l'ascoltatore dice sono di Lourdes, io addirittura stavo pensando a quelli di Fatima perché nel mio viaggio portoghese di quest'estate sono passato da Fatima e sono ovviamente i due dei Pastorelli di Fatima che sono stati dichiarati beati da Papa Francesco. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone, come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta, pedala. Allora, pedala, in occasione della terza edizione delle uno dei più importanti raduni europei di ciclo amatori, cicloturisti, cicloviaggiatori, si chiama BAM e fino a oggi si tiene a Rocca di Noale a Venezia. È la terza edizione. Terza questa. Edizione, noi conosciamo un ciclista, uno sprintman, un recordman, uno che ha fatto delle imprese pazzesche, Nico Valsesia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Autore fra l'altro di un libro La fatica non esiste, che è già un programma, no? Un programma politico. Che ha rovinato il rapporto fra me e mia mamma, perché io in realtà mi lamentavo molto, cioè sono affaticato, ormai mia mamma mi risponde la fatica non esiste, quindi sono un po', mi hai messo un po' in difficoltà. Qual è l'impresa più pazzesca che hai realizzato, Nico? Quella che ci pensi ancora adesso e dici ma come ho fatto? No, beh, impresa, non ho mai fatto imprese, perché le imprese sono ben altre. Ho fatto delle avventure. Senti, l'umiltà, la modestia. Beh, insomma, però hai pedalato per 4.800 km non stop dal Pacifico all'Atlantico, giusto per dirne una. Io non l'ho fatto, cioè, così ecco, per insomma. Intenderci. Ma io l'ho fatto e mi sono anche divertito molto, quindi l'ho fatto anche 5 volte, perché non mi ricordavo la strada, allora ho dovuto rifarlo fino a 5 volte. Sì, è una gara che si fa ogni anno. Quanto ci si mette a fare 4.800 km in bicicletta dal Pacifico all'Atlantico? Io ci ho messo il mio tempo migliore, ho fatto 9 giorni e 12 ore. Questo io ci avrei messo 9 anni, credo, a farlo. Sì, infatti l'ho rifatto tante volte perché passavo troppo in fretta, allora mi perdevo dei pezzi e l'ho rifatto. Questa volta me lo devo godere, vado più piano. Esatto. No, beh, però hai fatto anche una impresa con un dislivello di quasi 7.000 metri in non so quanto tempo, questa volta in America Latina. Ho iniziato questo progetto, no? Progetto che poi è una, diciamo, è un po' una scusa per poter girare il mondo, per andare in giro per il mondo a pedalare. Quello che ti piace, cioè pedalare, ecco, bravo. Allora sì. La scusa è quello di provare a tentare di fare questi record per riuscire a convincere gli sponsor a darmi una mano, no? Perché se dico vado in vacanza nessuno mi dà una mano, certo. Mi danno la mano, mi stringono. Però la non mano, diciamolo così ad alta voce, sennò poi ti sentono gli sponsor. Sei bravissimo, mi sembra che stai... diciamolo. È giusto, hai ragione. È giusto che venga detto. E comunque l'impresa, lo dico per i nostri ascoltatori, è un'impresa di partire dalla spiaggia cilena di Las Ventanas, che è diciamo a 37 gradi, e arrivare, partire dalla spiaggia e arrivare in vetta in Argentina a meno 15 gradi, quindi con un dislivello anche quasi di 55 gradi, giusto? Sì. Sì, cioè c'era parecchi rali di... Perché, oltretutto meno 15 quel giorno era molto caldo. Era uno dei rarissimi giorni dove si può togliere i guanti in cima alla Aconcagua, che è la montagna più alta delle Americhe, che è 6.962 metri. E niente, con questo progetto io ho fatto già il Monte Bianco, quindi Genova-Monte Bianco in 16 ore. Poi questo che parte dal mare del Cile, la Sventanas, come dicevi, e sono arrivato in vetta alla Aconcagua, la montagna più alta della Mi mancava il nome della vetta, ti chiedo scusa. No, niente. Che ci ho messo 22 ore e poi lo scorso anno ho fatto dal Mar Caspio una strada terribile dal 520 km, ho lasciato la bici e sono andato in vetta all'Elbrus, Monte Elbrus, che è il più alto d'Europa, a 5600. Io sto ancora pensando da Genova al Monte Bianco 19 ore, a me non sarebbero bastati 16 ore. A me non sarebbero bastati 16 mesi. Ma tutto questo è bellissimo ed è incredibile, ma la domanda è: ma perché? Cioè, perché lo fai? Perché mi diverto veramente tanto, mi vedo un sacco di posti belli, conosco un sacco di belle persone e faccio ciò che mi piace, quindi perché no? Ma uno potrebbe perché dire no, cioè parliamo a uno che non va in bicicletta, uno che non fa sport, e sono tanti, sono la maggior parte forse. E ce n'è anche alcuni in questo studio, esatto. Alessio. Perché la fatica non esiste? Perché è così bello fare tutta questa fatica invece? Prima, per quello che mi ha dato, per le opportunità che mi ha dato lo sport, a parte i record, le vittorie, queste cose qua che poco contano, ma se penso a dove mi ha portato lo sport, mi ha portato ovunque, mi ha portato negli Stati Uniti, in tutto Sud America, in Tibet, in Nepal, Marocco, quindi ho conosciuto in Cina, ho conosciuto un sacco di posti e tutto grazie allo sport. Avresti potuto andare anche in aereo in Cina, voglio dire, cioè avresti potuto fare tutto questo anche in treno teoricamente, però l'hai voluto fare in bicicletta. Ma in bici costa meno, Ale. Costa meno. In bici costa meno, ma poi un'altra cosa, guarda, sì, hai la velocità giusta per poter girare abbastanza velocemente da vedere tante cose. È vero, questo è vero. Ma non troppo velocemente per non goderti tante e poi altre. Ti puoi fermare però dove ti pare, dire, ti puoi fermare tu, anche dove ti pare, vedi una cosa che ti piace ti fermi, se sei in treno, se sei in qualunque altro modo non lo puoi fare, questo solo in bici non lo puoi fare. E poi una cosa molto importante, sì, che in bicicletta ovunque tu vada ti metti un po' allo stesso livello, al pari delle persone che incontri, cioè anche se vai in luoghi magari, certo, ma tu usi il casco normalmente? Io uso assolutamente sì, assolutamente sempre il casco. Diamo certo questo messaggio, non è obbligatorio, no, oggi il casco per andare? Purtroppo non è obbligatorio, non capisco perché lo sia in moto e siano obbligatorie le cinture di sicurezza e non in bici, anche perché beh, è molto però pericoloso. Forse perché non lo metto in dubbio che sia pericolosissimo, anzi direi che la cronaca degli ultimi giorni ce lo sta anche dimostrando, ma tu ti chiedi come mai in moto sì e in bicicletta no. Io immagino, ecco, che la bicicletta sia anche un po' il vantaggio della bicicletta sia anche che sia molto semplice, che uno prende la bicicletta, deve fare 700 metri e va a trovare la propria mamma. Se ogni volta devi metterti il casco o le cinture di sicurezza in bici, mi sembra difficile, o sbaglio? Ma non è vero, perché se si ha l'abitudine di farlo, uno è all'estero in tanti posti, è obbligatorio. Sì, anche questo è vero. Uno è abituato, ci sono dei supporti per il casco da attaccare al manubrio, la gente si attrezza, si abitua. Giusto, hai ragione. Ho sbagliato io. Anche perché basta 100 metri per cadere e sbattere la testa sull'asfalto. Verissimo. E non ci si alza più. Quindi è una cosa veramente banale che perché non rendere obbligatoria? Allora, però si può sbattere la testa sull'asfalto anche andando a piedi a prendere la metropolitana. Però io non vorrei mettermi il casco. Scusami, no, quello sicuramente, però cambia un pochino camminare e andare con la bicicletta. Purtroppo però dobbiamo registrare che la sicurezza dei ciclisti, anche dei pedoni, che sono le principali vittime della strada, ma anche i ciclisti, in Italia forse in particolare, lo chiedo a te che hai girato il mondo in bicicletta, negli ultimi giorni abbiamo avuto purtroppo un incidente mortale, quello del ciclista, certo, Scarponi, ma anche Hayden, il campione della MotoGP investito in Romagna. Come mai che così in gravissime condizioni, esatto, così rischioso in Italia avventurarsi in bicicletta per le strade, più che in altri paesi o no, nella tua esperienza? In alcuni paesi, vabbè, io ho fatto questo Mar Caspio, vetta dell'Elbrus nel Caucaso, e lì è terribile perché proprio cultura per la bici non esiste, ma neanche per la guida e nemmeno per il rispetto, poco rispetto. Quindi non siamo quelli messi peggio. Non siamo quelli messi peggio, però non siamo messi tanto bene, perché io vado tanto vado spesso in Francia, non è che non capitano gli incidenti, però cioè, forse ci sono delle regole più ferree. Per esempio, quindi, raccontaci un po', facci un po' capire. Allora, l'automobilista in Francia, ad esempio, aspetta, cioè nel sorpassare il ciclista, cioè comunque il ciclista è un essere umano, cioè non è che gli puoi passare a due centimetri perché hai fretta, perché comunque lui è in bici e tu sei in macchina e devi avere per forza ragione. Lui comunque è una persona, cioè un umano, e quando tu gli passi a 5 centimetri è come se gli sparassi a così a random, no? Sai cos'è che l'italiano ha qualcosa di strano. Stamattina ti racconto questo episodio vero. Stamattina io sono uscito di casa presto per venire in radio, c'era una ragazza con un motorino che mi ha superato e che ha mandato a quel paese un ciclista che stava andando contro mano. Non bisognerebbe andare contro mano, erano anche le 7:30 di mattina, non c'era veramente nessuno di domenica mattina per strada. Siamo arrivati al semaforo e lei è passata col rosso subito dopo. L'italiano è fatto così, quindi. Cioè se la prende per le infrazioni degli altri, però le sue vanno bene. C'è anche un po' questo nella nostra testa, forse, che qualcosa è vero, che non va. Vero, vero. Noi non abbiamo, innanzitutto non abbiamo piste ciclabili, se non pochissime, cioè veramente una percentuale bassissima rispetto ad altri paesi. Non c'è, purtroppo, anche se noi siamo il paese forse il numero uno per la bici, almeno, e lo eravamo, adesso lo stiamo perdendo, però non c'è mai stata la cultura del non so di chi va in macchina del ciclista, no? Se il ciclista comunque ha. Però adesso si stanno facendo le piste ciclabili in molte città. Tu hai sotto mano un po' la situazione, stai vedendo come, perché anche la larghezza a volte di queste piste ciclabili, se sono abbastanza larghe, abbastanza sicure, che ne pensi? Come vedi che sta migliorando un po' la situazione? Più o meno, perché comunque fanno delle piste ciclabili spesso dei tratti assurdi, magari nel paesino fanno quei 50-100 metri di piste ciclabili che non servono assolutamente a nulla. Le piste ciclabili che ci sono comunque sono più mal tenute, perché non sono pulite, sono piene di sassi, sono piene di rami, e quindi è inutile fare una cosa poi dopo non fare manutenzione. E allora, certo, il ciclista, quello che pedala per fare tanti chilometri, non può fare 50 metri, entrare nella pista ciclabile e poi uscire. Cioè non la prende nemmeno, lasci perdere direttamente. È vero che a volte sembra che questi assessori debbano piantare la bandierina della pista ciclabile portare poi a fine anno a bilancio. Abbiamo fatto le piste, e quando poi in realtà sono tratti interrotti, pezzettini molto stretti. Assolutamente. Poi sappiamo tutti, no, come la storia delle strutture in Italia, sì. Quindi se la pista ciclabile di 50 metri che potrebbe costare 2.000 euro invece ne costa 20.000, e questo poi puntini lo sappiamo tutti, no? Perché bisogna poi anche vedere se le città italiane, spesso con strade strette, molto strette, si prestano anche a questa questione delle piste ciclabili. Però insomma, è vero che si può migliorare il modo in cui vengono fatte. Non basta farle per poter essere soddisfatti, o le fai bene o meglio non farle, forse. Questo potrebbe essere un po' il senso. Poi, è vero che da noi le strutture, cioè le città c'erano già, erano fatte in un certo modo, ma c'erano anche in Svizzera, anche in Austria, e lì sono adeguati, le piste ciclabili ci sono e funzionano. Hanno iniziato dopo a fare le città, cerchiamo di difenderci in questo modo. hai pienamente ragione. Io direi che la sintesi più bella che hai fatto tu e che mi porto a casa è: il ciclista è un essere umano, perché giustamente stavi dicendo nel momento che uno ti sorpassa con la macchina, il ciclista è un essere umano, quindi se gli passa di fianco un proiettile a 130 130 all'autostrada, però insomma a 50 o 80 all'ora è ovvio che si spaventa molto. Però una cosa voglio ricordarla: tu prima dicevi lo stiamo un po' perdendo questo primato italiano nel mondo delle due ruote. In realtà, se non sbaglio, l'Italia con 2,3 milioni di biciclette prodotte è il maggior produttore europeo, quindi al momento, e comunque il mercato, l'economia della bicicletta in Italia vale 6,2 miliardi, in altri paesi vale molto di più, è vero, però comunque siamo messi benino, o no? O che cosa bisognerebbe fare? I dati io non li conosco, perché però io ho un negozio di biciclette. Ah, quindi perfetto, ne sai più di me di sicuro. Non vengono prodotte le biciclette, e purtroppo in Italia ci saranno rimasti 2-3 produttori di biciclette. Sono finiti, ma anche le aziende italiane hanno perso tantissimo come valore, come è strano Italia, questo, no? Però Nico, in effetti, proprio nel momento in cui questo mercato della bicicletta, anche in termini di fatturato, sta esplodendo, noi siamo rimasti con pochi produttori italiani. Quindi le bici che circolano in Italia sono importate per lo più? La maggior parte delle biciclette da corsa sono biciclette americane adesso. Gli americani hanno iniziato ad andare in bici, tra virgolette, ieri, perché prima andavano in automobile e ci hanno già fregato il mercato. A cavallo andavano e ci hanno fregato già prima, perché le aziende numero uno adesso al mondo di biciclette sono americane, cioè perlomeno. Poi la produzione ormai è tutta cinese, taiwanese. Però amici aziende... produttori di biciclette, amici del settore, non facciamoci fregare del tutto dall'estero. Siamo il paese delle due ruote per molti aspetti, perché insomma, in Italia da sempre c'è una tradizione, anche se è difficile a volte portarla avanti in sicurezza, questo pure bisogna dirlo. Non facciamoci fregare dal mercato americano, perché di solito ce la combattevamo con i francesi, no? Perlomeno al Giro e al Tour de France. Sì, esatto, adesso sono arrivati sia i ciclisti francesi come atleti, è vero. Cioè i francesi americani, che le aziende, ma perché hanno investito un sacco di soldi probabilmente nel marketing, ma anche nella ricerca, perché comunque i carbonio, cose innovative sono arrivati loro dal Senti, nulla. Cosa ne pensi, Nico Valsesia, grandissimo ciclista, delle bici con il motorino dentro, che ce ne sono sempre di più, con la pedalata assistita? Bravo. È un tradimento? Allora, bisogna distinguere, perché sono quelle col motorino per ingannare, e sono le bici da corso col motorino nascosto che le usano e sono state usate anche dai professionisti, purtroppo. Truffa ambiguità. Questa è una truffa, cioè da prendere il ciclista professionista e non farlo mai più andare in bicicletta per tutta la sua vita. Metterò a saldare le biciclette in Italia, così almeno ritorna la frutta. Le biciclette è bellissimo. È la punizione del ciclista. Loro, anche l'automobilista, quando li manda a quel paese, il ciclista non sentito urla: finirai a saldare le biciclette. Esatto. Scusami, ti ho interrotto. No. Mentre quelle a pedalata assistita, io direi che è una gran trovata, perché comunque portano persone a pedalare in montagna, porta persone a pedalare, perché magari gente non ha mai... Quindi promosse le bici a pedalata assistita, quelle lì promosse. Le anche altre perché no. Ci sono città, giusto, tipo San Francisco, che ha un sacco di salite e discese, conviene averla. Grazie Nico Valsesia, un abbraccio, e ricordiamo l'appuntamento a BAM, terza edizione del primo e più importante raduno europeo di ciclo viaggiatori, a Rocca di Noale, a Venezia. 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della settimana che è controcorrente tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Anche nell'anno trascorso l'enforcement del diritto della concorrenza e del diritto dei consumatori è cresciuto. Nel 2016 sono state irrogate sanzioni per complessivi 306 milioni di euro. Abbiamo potuto ritenere aggressive le modalità con cui WhatsApp ha ottenuto il consenso dei propri clienti al trasferimento dei loro dati. Ecco, tra le notizie della settimana c'è anche l'annuncio del presidente dell'Antitrust Petruzzella, questa multa, cioè 306 milioni di euro in generale alle aziende che hanno violato la concorrenza, e poi questa multa a WhatsApp per la questione del consenso, no, alla messaggeria, al passaggio ai dati a Facebook, che sembrava obbligatorio e invece forse non doveva esserlo. Ma poi ce li ridanno noi questi milioni di multa a ognuno che ha un numero WhatsApp che è iscritto? Dobbiamo chiamare Petruzzella per chiederlo. Settimana caratterizzata anche da notizia che riguarda il fondatore di Wikileaks, Julian Assange. Today is an important victory for me and for the UN human rights system. But it by no means... Ecco, Assange che si affaccia un po' come il Papa dal balcone dell'ambasciata dell'Ecuador di Londra, dove è rintanato e dove ha ritrovato asilo da alcuni anni. Su di lui c'è un mandato di cattura che però adesso è caduto da parte della Svezia. sono gli Stati Uniti soprattutto a cercarlo. La Svezia, un mandato di cattura per stupro, ritirata l'accusa, una grande vittoria per i diritti umani, perché lui ha sempre detto che questa era un'accusa politica. Certo. In realtà lui, fondatore di WikiLeaks, che diffonde notizie, documenti riservati normalmente, e non è conciliante nelle sue parole, perché dice: sono stato 7 anni senza accuse, nel senso che non c'è neanche un'accusa, quindi mi chiedo perché i miei figli siano cresciuti senza di me. Questa è una cosa che non posso perdonare né dimenticare. Allora, andiamo con Renato da Napoli. Buongiorno all'800240024. Renato, vai. Buongiorno, buongiorno a voi, buona domenica. Eccoti qua, cosa volevi intervenire? Personaggio. Vai, chi è? Per me potrebbe essere Briatore. Per quale motivo? Perché in un collegamento con Costanzo non era d'accordo sul fatto che i giovani si laureassero, insomma, più non posso, ma di iniziare le attività come ha fatto lui, che a 12 anni già raccoglieva delle mele, per cui era il presupposto per creare un domani un'azienda. Pensavo fosse per la polemica sul Twiga in Puglia. Beh, di cui abbiamo parlato ieri. Briatore ce n'ha una ogni settimana, sta diventando, com'è che l'abbiamo detto ieri, il mago Telma dei ricchi, non dei poveri. Non era lui però il personaggio a cui avevamo pensato, eh. In realtà l'abbiamo usato ieri, Briatore, per la questione dei sacco pelisti. Dove ha detto: non lasceremo la Puglia ai turisti in sacco a pelo, che onestamente è una minaccia poco comprensibile. Francesco dalla provincia di Roma, buongiorno, benvenuto. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Francesco, pronto, ti sentiamo forte e chiaro, se vuoi intervenire. Tocca a te. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire sul personaggio del giorno. Sì? Chi è? È la nipote dell'imperatore giapponese, che non vuole sposarsi con quelli della corte, ma? Fuori dalle righe. Non vuole sposarsi con qualcuno che appartenga al suo stesso rango, perché si è innamorata di chi? Un avvocato, credo, che ha conosciuto in così, università. Per caso. Francesco, bravo. Ci tenevamo a farti raccontare a te la storia. La notizia. È la principessa del Giappone, che ha deciso di sposare l'ex compagno di università e così rinunciare al trono. Trono? A noi ci è sembrato l'amore che trionfa, ci è sembrato un si può fare straordinario, l'amore che trionfa sui riti della monarchia e anche sul fatto che così rinuncia proprio al trono. Rinuncia al titolo nobiliare, al titolo nobiliare per inseguire il suo sogno d'amore. Bravo Francesco, hai indovinato il nostro personaggio controcorrente di questa settimana, ti porti a casa un libro a tema, verrai contattato dal nostro centralino per aggiudicarti il libro. La settimana scorsa avete indovinato prima, questa settimana siete tornati a indovinare in chiusura. Sotto quindi, chiusura. Sì, non facciamo altri personaggi per oggi. 800 24 00 24, però potete intervenire sul resto della puntata. Vi ricordo, siamo partiti dalla legge in Toscana sulla questione della produzione di piccoli cibi casalinghi, autorizzata o meno. E poi tante cose, abbiamo sentito Nico Valsesia dal raduno dei cicloturisti a Noale di Venezia. Andate a farvi un giro, no? Bello. Infatti glielo volevo chiedere, come si va al raduno di ciclo? Se io parto dalla Puglia, devo andare in bici per forza o posso... O puoi caricare la bici sul treno? Esatto. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. How do we end up like this? Under a burning sky. Something's better unsaid. It's easier to lie. I'm putting but my heart is on the wire. Thousand gods to lock me in. Doesn't take a fool to start a fire. A solitary spark and wars begin. Say it's only words, and that is. mica testimonia di tante campagne contro il bullismo in questa Hearts. Fa male, fa male sì il bullismo, ma soprattutto il cyberbullismo, che è la forma di persecuzione contro la quale questa settimana è stata però approvata una legge all'unanimità, e anche questa sarebbe già di per sé una notizia. Diamo la buona domenica alla senatrice, prima firmataria del DDL sul cyberbullismo, Elena Ferrara, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno. Allora, onorevole, saltiamo un po' di preamboli e di premesse su motivi per cui si è arrivati a questa legge e le motivazioni, perché non abbiamo moltissimo tempo, abbiamo accumulato un po' di ritardo. Che cosa prevede però questa legge che è stata votata appunto questa settimana? E che cosa cambia da domani? Esatto. Insomma, da quando arriverà il regolamento? Riusciremo a sconfiggerlo, questo cyberbullismo? Allora, la buona notizia è che c'è una legge per gli adolescenti, i preadolescenti, quindi i minori, che li vuole tutelare la loro dignità, perché si stanno facendo male tra loro sulla rete, e che quindi è impostata sostanzialmente sulla prevenzione. Domani non so, però sicuramente dal prossimo anno scolastico ci saranno nuove linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione, che dovranno comunque essere rivisitate ogni 2 anni, relazioni che vengono presentate anche al Parlamento per poter monitorare la situazione, e soprattutto un tavolo interministeriale che non comprende solo il Ministero dell'Istruzione, che peraltro è il coordinatore di questo tavolo, ma tanti altri ministeri, autorità. Ma nel concreto, perché nel questa concreto, è la legge vista, esatto, diciamo dall'alto, no? Invece ma vista nel dal concreto, basso. No, visto dal punto di vista basso, di un quattordicenne che del materiale che lo riguarda è stato messo in rete, che cosa cambia? Allora, il minore dai 14 ai 18 anni può rivolgersi attraverso un dispositivo, un alert che deve essere messo a disposizione sulle bacheche dei social media, per poter chiedere la rimozione, l'occultamento e il blocco di un contenuto che lui ritiene offensivo, umiliante. E ci sono dei tempi, 24 ore per la presa in carico e altre 24 per la rimozione. In caso di inerzia, il minore però, rivolgendosi ai genitori, può avanzare istanza al garante della privacy perché questo contenuto sia effettivamente rimosso. Allora, io credo che questo sia rivoluzionario, cioè non esiste da nessuna parte che un minore possa, senza uscire da casa sua, sì, col suo smartphone, fare questa richiesta. E che però poi richiesta ci dovrà essere una verifica, perché sennò ognuno può, ogni 14enne può dire: secondo me questa cosa è offensiva, e cosa succede a quel punto? No, infatti le 24 ore per la presa, massimo 24 ore per la presa in carico, è proprio per contestualizzare che effettivamente questo contenuto sia un contenuto da rimuovere. Una curiosità, sì, ma non onorevole, è un problema, sì, di algoritmo, bisogna proprio considerare la situazione, perché può essere anche che questo ragazzino o ragazzina siano comunque davvero in una situazione di grande difficoltà, ma non siano così riferibili a condotte di reato. Sì. No, ci saranno proprio delle verifiche del caso, è ovvio. Una curiosità: perché i motori di ricerca sono stati esclusi da questa previsione? Cioè, io posso chiedere minorenne di rimuovere un contenuto a un sito, a un social, ma non a un social, ma non posso fare la stessa richiesta al motore di ricerca, che però magari rilancia questo contenuto nelle ricerche che vengono fatte. Perché questo avviene nelle piazze virtuali dei social, e naturalmente una volta che però questo contenuto viene rimosso dai server, dovrebbe essere in qualche modo davvero rimosso in termini generali. Quindi speriamo, perché sappiamo la potenza dei motori di ricerca, che sono in grado di moltiplicare contenuti di cui a volte non si sanno più nemmeno l'origine. Questo purtroppo, e soprattutto se ci sono dalle esiste. 48 alle 96 ore di tempo, come ben sappiamo, il vero problema è che chiunque può copiarsi questo contenuto e metterlo su un'altra piattaforma, ma e poi ci si insegue. Anche solo 3 minuti, certo, c'ha ragione. Voi lo sapete che ci sono casi in cui quello delle due ragazzine che si sono picchiate, eccetera, 4 milioni di visualizzazioni, certo, ma 800.000 condivisioni. Bene, chi lo salva quel contenuto può sicuramente rimetterlo in rete, però voi mi insegnate che questo è il grosso tema, e che comunque in Europa noi siamo i primi che diciamo che almeno i minori comunque uno strumento oggi ce l'hanno. Poi con il codice di co-regolamentazione all'interno di quel tavolo interministeriale si vedrà, perché la rete corre molto veloce. Staremo a vedere, l'importante era... Però intanto questo era dare un segnale. Il segnale è stato dato, noi la ringraziamo, onorevole Ferrara. Mi scusi se. No, non abbiamo più tempo, mi scusi, dobbiamo chiudere. Abbiamo un'altra segnalazione importante da dare. Abbiamo comunque parlato di questa legge sul cyberbullismo. Andiamo con la segnalazione che riguarda la giornata nazionale del naso rosso e oggi nelle piazze italiane troverete qualche cosa che vi stupirà. Chi troverete? Paolo Brunelli, volontario di Viviamo in Positivo Onlus, buongiorno. Paolo? Sì, pronto. Cosa troveremo oggi nelle piazze di molte città italiane? Ce lo racconti tu? Esatto. Raccontacelo. Scusami perché sono un po' emozionato. Sì, non ti preoccupare, abbiamo poco non tempo. Non ti preoccupare, però abbiamo 90 secondi. Troveremo i clown che fanno sorridere i bambini che negli ospedali italiani devono affrontare tante difficoltà, vero? Esattamente, sì. Oggi è la nostra 13ª giornata del naso rosso che festeggiamo a livello nazionale in tutta Italia, in 57 piazze. E ci saranno i nostri volontari clown che, ecco, stiamo parlando di clown, non di ubriaconi, scusami. No, di clown. Era importante clown, ricordarlo ai nostri ascoltatori. E tutti i volontari che liberamente scelgono di dedicare una parte del loro tempo a portare un sorriso nelle corsie degli ospedali, nelle case di riposo, in varie strutture anche. Perché tu sei già scuole. In piazza a Brescia, forse è per questo che adesso sentiamo intorno, sì, a te. Siamo in piazza, in realtà siamo a Desenzano, che è un paese, sì, in provincia di Brescia. Sul lago di Garda. Una meravigliosa località vicino al lago di Garda. E i nostri clown sono pronti ad aspettare, stanno già iniziando. Tu stesso, Paolo, sei un clown Zio Lupo, vero? Esatto, io sono clown Zio Lupo. E qual è la tua specialità, Zio Lupo? In realtà fare le magie sbagliate e fare fotografie, raccontare le emozioni con le mie immagini. In che modo oggi possiamo darvi una mano? Diciamo questo che è importante. Assolutamente, venendo a trovarci e lasciandovi clowntaggiare dai nostri volontari. Voi ci troverete in piazza, è l'unica giornata a livello nazionale per raccogliere fondi che serviranno a finanziare i progetti della nostra federazione. Condividiamo tutti gli stessi valori, tra cui Viviamo in Positivo, la formazione, l'unità per crescere insieme, lo spirito clown, il servizio clown, volontariato e l'esempio. È bellissimo quello che fate. Io vi ringrazio, Paolo Brunelli, Zio Lupo, ma insomma te e tutti gli altri clown, uomini e donne dal naso rosso, che fate una cosa straordinaria. Grazie, li troviamo oggi nelle piazze di molte città italiane e possiamo dargli una mano, un contributo. E quindi era giusto chiudere così. Giusto. Noi ringraziamo Andrea Piana, Claudia Schiettone, Lorenzo Nespoli, Peter Bescapè. Ci risentiamo nel prossimo weekend, come sempre, con Si Può Fare. E allora ciao da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini. Buona domenica anche a chi ci ascolta in podcast.